Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. In un attacco cade il nostro comandante di compagnia Berting. Era uno di quei magnifici ufficiali del fronte che appena comincia a far caldo si trovano in testa. Era con noi da 2 anni senza essersi mai buscato una ferita. Per forza doveva un giorno accadergli qualche cosa. Ci troviamo in una buca accerchiati dal nemico. Con l'odore della polvere viene a noi un puzzo di olio o di petrolio. Scopriamo 2 uomini con un lanciafiamme. Uno ha in spalla la cassetta, l'altro ha nelle mani il tubo dal quale si sprigiona la fiammata. Se si avvicinano tanto da raggiungerci, siamo finiti perché ripiegare è per il momento impossibile. Li prendiamo sotto il nostro fuoco, ma essi riescono a farsi avanti e la minaccia si fa seria. Berting è con noi nella buca. Quando si accorge che non riusciamo a colpirli, perché data l'intensità del fuoco dobbiamo tenerci ben coperti, prende lui un fucile, si arrampica fuori e mira, stando disteso, appoggiato ai gomiti. Il colpo parte e nello stesso istante una palla schiocca da presso. L'ho accolto. Ma Berting rimane coricato e mira di nuovo. Per un momento abbassa la canna, poi torna a puntare e un altro colpo parte. Berting lascia cadere il fucile e dice «Buono!» e ruzzola indietro. Quello dei 2 lanciafiamme che sta più lontano è ferito e cade. Il tubo sfugge di mano all'altro, il fuoco sprizza in tutte le direzioni e l'uomo brucia. Berting è ferito al petto. Dopo un po' di tempo una scheggia gli fracassa il mento. La medesima scheggia ha ancora la forza di aprire il fianco a Lear. Questi geme e si punta sulle braccia e si dissangua rapidamente. Nessuno lo può soccorrere. Come un otre vuoto, dopo qualche minuto, s'affloscia e giace. A cosa gli serve ora di essere stato così bravo in matematica a scuola? I mesi passano. Questa estate del 1918 è la più sanguinosa e la più greve. I giorni stanno come angeli d'oro ed azzurro, inafferrabili sopra la cerchia della distruzione. Tutti qui sappiamo che perdiamo la guerra. Non se ne parla molto, ma siamo in ritirata e non potremo più attaccare dopo questa grande offensiva. Non abbiamo più né uomini né munizioni e tuttavia la lotta continua, la strage continua. Estate 1918, mai la vita, pur in questa sua così miseranda parvenza, ci è parsa più desiderabile di ora. Papaveri rossi sui prati intorno ai nostri baraccamenti, lucidi insetti sui fili d'erba, calde serate nelle camere semibuie e fresche, alberi neri e misteriosi nel crepuscolo, stelle e fluire di acque, sogni e lunghi sonni. Oh vita, vita, vita. Estate 1918, mai si è tanto sofferto in silenzio quanto stavolta nel ritornare in linea. Incomposti, eccitanti rumori di armistizio e di pace sono sorti e turbano i cuori e rendono la partenza più grave che mai. Estate 1918. Mai la vita di trincea è stata più amara e orribile che in queste ore di fuoco, quando le pallide facce di combattenti giacciono sulla motta e le mani si avvinghiano nella spasmodica invocazione. Non ora, non ora, non ora, proprio all'ultimo istante. Estate 1918. Vento della speranza che vola sopra i campi bruciati, febbre delirante dell'impazienza, della delusione, atroce orrore di morte, inafferrabile domanda: perché? Perché non si finisce? E perché si levano queste voci che annunciano la fine? Tanti sono gli aviatori così sicuri che danno la caccia al singolo soldato come se fosse una lepre. Per un aeroplano tedesco ne vengono almeno 5 inglesi e americani. Per un soldato tedesco in trincea, denutrito e stanco, ce ne sono 5 nella trincea avversaria, vigorosi e freschi. Per una pagnotta tedesca ci sono di là 50 scatole di carne in conserva. Non siamo battuti, perché come soldati siamo migliori e più sperimentati. Siamo semplicemente schiacciati e respinti dalla molteplice preponderanza avversaria. Abbiamo dietro di noi alcune settimane di pioggia. Grigio il cielo, grigia la terra che si scioglie in fango, grigia la morte. Quando ci portano in linea, l'umidità ci penetra già i cappotti e i vestiti, e vi rimane finché si sta fuori. Non si è mai asciutti. Quelli di noi che ancora portano stivali li fasciano in alto con sacchetti da terra, perché l'acqua limacciosa tardi alquanto a colar dentro. I fucili arrugginiscono, le uniformi marciscono, tutto è liquido e sfatto. Una gocciolante, umida, oleosa massa di terra in cui si aprono pozzanghere gialle chiazzate da rosse spirali di sangue e in cui morti, feriti e superstiti lentamente affondano. L'uragano ci flagella, la grandine di schegge strappa da questa confusione di grigio e di giallo i gridi acuti come di bimbi dei feriti, e ogni notte la vita straziata geme a lungo nella sua pena che va verso il silenzio. Le nostre mani sono terra, i nostri corpi fango, i nostri occhi pozzanghere di pioggia. Non sappiamo quasi se siamo vivi ancora. Poi il calore si abbatte sulle nostre buche, umido e vischioso come una medusa. E in uno di questi giorni di tarda estate, andando a prendere il rancio, Kat cade rovescio. Siamo noi due soli, io bendo la sua ferita. La tibia sembra fracassata. Certo, è colpito l'osso e Kat geme disperato. Adesso, proprio adesso, io lo consolo. Chissà quanto dura ancora, tu intanto sei salvo. La ferita comincia a sanguinare copiosamente. Kat non può rimanere solo finché io vada a prendere una barella e neppure so dove ci sia un'ambulanza lì vicino. Kat non pesa molto, perciò me lo carico sulle spalle e decido di portarlo al posto di medicazione. 2 volte dobbiamo fermarci. Il trasporto gli cagiona dolori acuti. Non parliamo molto. Io ho sganciato il bavero della mia giubba, respiro affannosamente, sudo, la faccia mi si gonfia per lo sforzo. Tuttavia insisto perché si prosegua. La zona è pericolosa. Va meglio ora, Kat. Per forza deve andare, Paul. E allora, via. Lo alzo in piedi, egli si sostiene sulla gamba sana e si appoggia a un albero. Allora sollevo con precauzione la gamba ferita, egli si dà una spinta ed io prendo sotto l'altro braccio il ginocchio della gamba sana. Il cammino diventa più difficile di quando in quando arriva fischiando una granata, ma fretto più che posso perché il sangue della ferita gocciola a terra. Ci proteggiamo a stento dai colpi perché prima che arriviamo a coprirci sono passati da un pezzo. Per aspettare un po' ci ricoveriamo in una piccola buca. Do a Kat il tè della mia borraccia e fumiamo una sigaretta. Dunque, Kat, dico tristemente, ora bisognerà separarci. Lui tace e mi guarda. Ti ricordi, Kat, quando abbiamo requisito l'oca? E come mi hai tratto fuori dai pasticci quando ero ancora una recluta e fui ferito per la prima volta? Ho pianto ancora quel giorno. Pensa, Kat, sono passati quasi 3 anni. fa segno di sì. Il terrore della solitudine sale entro di me. Se mi portano via Kat, non mi rimane più un amico. Kat, bisogna che ci rivediamo in ogni caso se davvero si fa la pace prima che tu torni al fronte. Credi che con quest'osso io possa tornare abile? Domanda amaramente. Guarirai con tutta tranquillità. L'articolazione non è toccata, vedrai. Forse va tutto a posto. Dammi ancora una sigaretta, dice. Chissà che non si possa più tardi combinare qualche cosa insieme, Kat. Sono molto triste. È impossibile che Kat, il mio amico, Kat dalle spalle spioventi e dai sottili e morbidi baffi, Kat che conosco in un modo diverso da ogni altra creatura, Kat col quale ho diviso questi anni, è impossibile che non lo debba più rivedere. Dammi il tuo indirizzo di casa, Kat, ad ogni buon conto, ed eccoti il mio, guarda, te lo scrivo. Metto il biglietto nel mio portafogli. Come mi sento già abbandonato, benché egli sia ancora qui accanto a me. Devo tirarmi una pallottola in un piede per rimanergli vicino. All'improvviso Kat fa una specie di gorgoglio e diventa verde e giallo. Andiamo avanti, balbetta. Balzo in piedi, ansioso di aiutarlo, lo carico sulle mie spalle e mi metto a correre, una corsa lenta e regolare perché la sua gamba non oscilli troppo. Ho la gola arida, macchie rosse e nere mi ballano davanti agli occhi. Quando la bocca aperta e sforzandomi senza pietà raggiungo finalmente il posto di medicazione. Qui cado sfinito, ma ho ancora la forza di cadere dalla parte dove Kat ha la gamba sana. Dopo qualche minuto mi rialzo lentamente, le gambe e le mani mi tremano forte, fatico a trovare la borraccia per trangugiare un sorso, mi tremano le labbra mentre bevo, ma sorrido. Kat è al sicuro. Dopo qualche tempo comincio a distinguere le parole nel confuso vocio che mi riempie le orecchie. Avresti potuto risparmiarti questa fatica, dice un soldato di sanità. Io guardo senza capire. Egli indica Kat. Non vedi? È morto. Non capisco. Ha un colpo nella tibia, dico. L'infermiere non si scuote. Sì, anche quello. Allora mi volto, ho gli occhi ancora annebbiati. Il sudore ha ripreso a colare e mi scorre sulle palpebre. Lo asciugo e guardo Kat. Giace immobile. Svenuto, dico in fretta. Quello della sanità fa un lieve fischio. Devo intendermene più di te, mi pare. È morto, ci scommetto qualunque cosa. Io scuoto la testa. Ma è impossibile, gli ho parlato 10 minuti fa. È svenuto, ti dico. Le mani di Kat sono calde. Gli prendo le spalle per frizionarlo col tè. Ora sento le mie dita inumidirsi. Quando gliele tolgo di dietro la testa, vedo che sono bagnate di sangue. Quello della sanità fischietta di nuovo fra i denti. Vedi? Senza che io me ne sia accorto, Kat è stato colpito per la strada da una scheggia alla testa. Non si vede che un piccolo foro, deve essere stata una scheggia minuscola, sperduta, ma è bastata. Kat è morto. Mi alzo lentamente. Vuoi prendere il suo libretto e le sue cose? Mi domanda il caporale. Accenno di sì e me le dà. L'altro è stupito. Siete forse parenti? No, non siamo parenti. No, non siamo parenti. Cammino ancora i piedi, alzo gli occhi, li giro intorno e mi giro io stesso in cerchio finché mi fermo. Tutto è come prima, tutto. Soltanto è morto il richiamato Stanislao Kaczynski. Poi non so più nulla. È l'autunno. Dei vecchi compagni non siamo più in molti qui. Io sono l'ultimo dei 7 che venimmo insieme dalla scuola. Tutti parlano di pace e di armistizio, tutti aspettano. Se anche questa volta fosse una delusione, guai, le speranze sono troppo forti. Non si possono più rintuzzare senza farle esplodere. Se non sarà pace, sarà la rivoluzione. Mi danno 2 settimane di riposo perché ho respirato un po' di gas. Siedo in un piccolo giardino tutto il giorno al sole. L'armistizio viene tra poco, ora lo credo anch'io, ce ne andremo a casa. Qui i miei pensieri si interrompono e non vogliono fare un passo innanzi. Ciò che mi trascina e mi attira sono dei sentimenti, è bramosia di vita, è nostalgia della mia casa, è il sangue che pulsa, è l'ebbrezza di essere salvo. Ma non sono propositi definiti. Se fossimo tornati a casa nel 1916, dal dolore e dalla forza delle nostre esperienze si sarebbe sprigionata la tempesta. Ritornando ora, siamo stanchi, depressi, consumati, privi di radici, privi di speranze. Non potremo mai più riprendere il nostro equilibrio e neppure ci potranno capire. Davanti a noi, infatti, sta una generazione che ha sì passato con noi questi anni, ma che aveva già prima un focolare ed una professione ed ora ritorna ai suoi posti d'un tempo e vi dimenticherà la guerra. Dietro a noi sta un'altra generazione, simile a ciò che fummo noi un tempo, la quale ci sarà estranea e ci spingerà da parte. Noi siamo inutili a noi stessi. Andremo avanti, qualcuno si adatterà, altri si rassegneranno e molti rimarranno disorientati per sempre. Passeranno gli anni e finalmente scompariremo. Ma forse anche questo che penso non è che malinconia e smarrimento. Forse svanirà quando sarò sotto i miei pioppi e ascolterò il mormorio del loro fogliame. Non può essere del tutto scomparsa quella tenerezza che ci turbava il sangue, quell'incertezza, quell'inquietudine di ciò che doveva giungere, i 1000 volti dell'avvenire, la melodia dei sogni e dei libri, il fruscio lontano, il presentimento della donna. Non può essere scomparso tutto questo sotto il fuoco tambureggiante, nella disperazione, nei bordelli di truppa. Gli alberi qui splendono variopinti e dorati. Le bacche del sorbo rosseggiano tra il verde. Le strade corrono bianche verso l'orizzonte e le cantine sembrano alveari ronzanti per le voci di pace. Mi alzo. Sono contento. Vengano i mesi e gli anni, non mi prenderanno più nulla. Sono tanto solo, tanto privo di speranza, che posso guardare innanzi a me senza timore. La vita che mi ha portato attraverso questi anni è ancora nelle mie mani e nei miei occhi. Se io abbia saputo dominarla, non so, ma finché dura, essa si cercherà la sua strada, vi consenta o non vi consenta quell'essere che nel mio interno dice io. Egli cadde nell'ottobre 1918, in una giornata così calma e silenziosa su tutto il fronte, che il bollettino del comando supremo si limitava a queste parole: «Im Westen nichts Neues». Niente di nuovo sul fronte occidentale. Era caduto con la testa in avanti e giaceva sulla terra come se dormisse. Quando lo voltarono si vide che non doveva aver sofferto a lungo. Il suo volto aveva un'espressione così serena, quasi che fosse contento di finire così. They built the ship each winter time for launch to sea before the storm. They don't just go from A to B, they go around and come around again. Cause out there's always a construction site, a Starbucks, and yet another Guggenheim. You mean knows what me wants, me who knows what you me wants, and it's granted. No more castles on the hotel key. A phone line, a laptop, and a box of tangerines. They turn houses into homes where earthquakes live with car alarms. Mature, mild-mannered catastrophes. They gift each other a thousand names and take them off. Take them off again. Like excessive jewelry. So you mean knows what me wants. Me knows what you need wants, and it's grand. They defend each other against the past. If the future isn't bright, at least it's colorful. So burn the ship come spring. They fail, fail and try again. Fall off a cliff, succeed and fall, fall again. They have proven quite effectively that bumblebees indeed can fly. Against the field's authority, they invent each other ever anew. Still they won't have a different view of everyone or anything. Defend themselves against the whims of fate. Question the statistics, accelerate the status quo, deny the rules of gravity. But they don't use the word once dropped that might break. They do not say that they have love, for who can say? We were killed yesterday. Knows what me wants, me knows what you me wants, and it's friendly. You me knows what me wants, me knows what you me wants, and it's friendly. Knows what me wants, me knows what you me wants, and it's granted. You me knows what me wants, me knows what you me wants, and it's granted.